Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Un traffico di banconote false scoperto qua a Ostia dalla polizia. Sì, due giovani che stavano scambiando un pacco con 10.000 euro completamente falsi, tutti in tagli del banconote da 50 euro. Si trovavano i macchinari sequestrati del valore di almeno 20.000 euro, stampanti professionali, un computer, una pressa per incidere l'ologramma sulle banconote. Sequestro record in Polonia, la polizia ha scoperto in una casa di Varsavia 1 milione di euro falsi in banconote di diverso taglio. Anche gli esperti della scientifica lo hanno riconosciuto, nonostante il disordine sei bravo, hanno detto a Salvatore Ranfra. Riteniamo che ci sia un grosso movimento anche della segnalazione dei commercianti, quindi invitiamo la cittadinanza e i commercianti stessi dettaglianti a portare massima attenzione nel controllo delle banconote, soprattutto quelle da 50, il taglio da 20, perché purtroppo abbiamo notato che sono fatte abbastanza bene, hanno delle caratteristiche. È divertente. Avevo scritto poco fa sul profilo Facebook, oggi parleremo di soldi falsi. Mi scrive Ornella, dice, sono gli unici che si vedono in abbondanza di questi tempi. Come dice Danilo, un mio conoscente di cui non dirò il nome, con i soldi falsi ci andava a troie e ci faceva pure dare il resto. Praticamente le prostitute pagavano lui. Deprecabile aneddoto. Beh, è proprio così. Oggi il problema del denaro falso diventa quanto mai lancinante e stringente, perché di soldi ne girano sempre meno. Ma oltre che girare meno, c'è una tendenza diffusa, di cui tutti poi facciamo le debite considerazioni, di poterne usare sempre meno. Il denaro contante sta andando in disuso, perlomeno ci stiamo abituando che forse è meglio usare le transazioni elettroniche, perché così si evita la parte oscura delle transazioni, cioè il denaro, i pagamenti fatti a nero, e si disincentiva, almeno questa è l'intenzione, la malavita organizzata che di denaro contante ne ha tanto, di poterlo investire in attività lecite. Detto questo, c'è poi la notizia che presto, a 10 anni dalla sua contrastata nascita, l'euro in quanto consistente, concreto, oggetto, carta moneta, cambierà la sua veste grafica. Qualcuno era notevolmente al tempo schifato dalla veste grafica della nuova moneta, perché rimpiangeva le vecchie lire, c'è sempre qualcuno che rimpiange il passato. Oggi avrà una possibilità di riscatto perché cambieranno gli euro. Beh, di tutto questo vorrò parlare questa mattina. 800240024, quanto ancora usate il vostro denaro? Fate ancora attenzione che il vostro denaro sia quello giusto, non faccia parte delle tante produzioni di monete falsificate? Che uso improprio fate del vostro denaro? Sì, perché la carta moneta, oltre che per pagare e per ricevere pagamenti, viene usata per fare tante altre cose, come appunto il cattivo esempio dell'ascoltatore di poco fa. Vi siete mai chiesti come nasce una banconota? Per esempio una da 50 euro? Beh, nessuno ci fa caso solitamente, si pensa più al suo valore. Eppure questa semplice banconota è un vero capolavoro. Pensate che per passare da un foglio di carta a questi 50 euro ci vogliono ben 45 giorni, perché è il frutto di un processo estremamente complesso e di altissima qualità. Allora, cominciamo dall'inizio. Gran parte degli Questo era il mitico figlio di Piero Angela, che ci parla della difficoltà di costruire il denaro. Perlomeno una banconota è un oggetto molto complesso, e quanto sarà complesso poi ve lo ricorderò questa mattina. Non è semplicemente un foglio di carta come quelli che Totò e la sua banda di falsari stampavano nel loro garage, non avendo poi il coraggio di spacciarlo. Ma questa complessità del denaro è anche legata a una sua forma estetica. Esiste una fittissima aneddotica riguardo appunto a ciò che è scritto, disegnato, impresso nella carta moneta. Molte volte si parla di simboli occulti, di misteriosi poteri che sottendono la finanza mondiale, che lasciano la loro traccia nelle banconote, i dollari con quella loro piramide così sinistra, così legata ad associazioni segrete, a logge nascoste e via dicendo. Ma poi ci sono anche altre citazioni. La storia però ci racconta che in realtà anche i grandi dittatori del passato ci tenevano molto che la carta moneta riflettesse la loro virile possanza anche nella forma grafica. È il 1926 e Benito Mussolini aveva appena lanciato l'obiettivo della quota 90, cioè 90 lire per una sterlina. Il progetto meritava un ripensamento grafico delle banconote e così ordinò che venissero ridisegnate. Ma il risultato non incontrò i suoi gusti. Le figure di uomo che incorniciavano le cifre erano troppo poco virili, imbarazzanti. Rispedì il bozzetto al mittente con un commento indignato, vergato a mano. Scrisse sul biglietto: è semplicemente orribile, super balcanico, e firmò Mussolini, dove con balcanico si intendeva una promiscuità sessuale comune nei Balcani, in Turchia, eccetera. Gli anni 60, l'ubriacatura di ottimismo causata da... divertente, trovava delle monete per i gay, il duce, così poco virili, per l'italica possanza, quelle che gli avevano proposto. Chissà cosa ci sarà stato mai rappresentato, forse eroi nudi allacciati in bracci non propriamente guerreschi o bellici. Carla Delfino, buongiorno. Buongiorno. Carla Delfino è stata già nostra ospite, è la presidente di Imperial Emporium, che è una società che fabbrica macchine per verificare, contare e valutare denaro. Macchine attraverso cui passa il denaro, ma è un'esperta di soldi. Ne girano tanti di soldi falsi, Carla? Eh sì, abbastanza. Le cifre ufficiali non si conoscono, perché si conoscono soltanto le cifre delle banconote che sono state sequestrate. Quelle che si trovano, ecco. Quelle che vengono sequestrate prima o dopo il passaggio. In termine tecnico significa che la banconota arriva alla banca. In realtà si stima che ci siano almeno 4 o 5 volte in più di percentuale di banconote circolanti. E poi il problema non è soltanto dell'euro che viene spacciato in Europa, dove tutto sommato 332 milioni di persone lo usa costantemente. Il problema è che l'euro viene inviato in grandi quantità in Africa, nei paesi emergenti, dove viene spacciato, e viene spacciato l'euro di qualità peggiore. Quindi poi queste banconote comunque ricircolano nel mercato mondiale, e perché naturalmente tutti coloro che non trattano quotidianamente l'euro non lo conoscono così bene come... C'è una famosa truffa di cui hanno parlato molto in televisione: viene un signore africano, ti porta un pacco di banconote macchiate d'inchiostro, dice: sì, guarda, se vuoi ti do anche il solvente per pulirle, mi paghi. Quindi è di questo denaro che si sta parlando? Sì, sì, senz'altro. Perché, ripeto, c'è un'attenzione molto bassa nei confronti delle banconote straniere, perché nei paesi, diciamo, emergenti c'è una grande fiducia verso l'euro, verso il dollaro. Quindi per antonomasia l'euro è una banconota vera. È un infame traffico che approfitti di popolazioni che già hanno difficoltà, certo, dandogli soldi falsi, e poi loro, certo, naturalmente, non dico sono costretti, ma per arrabattarsi le macchine d'inchiostro e ritrovano qualche pollo alle nostre latitudini che se le riacquista. Molte persone, intanto dico al pubblico di chiamare 800 24 00 24, vi è capitato mai che vi appiccicassero soldi falsi? Che ne avete fatto? Li avete riappiccicati a vostra volta a qualche ignaro commerciante, a qualche amico poco attento, o li avete portati in banca diligentemente dicendo che hanno dato soldi falsi? Molti dicono che arrivano anche dal bancomat. Può essere da un bancomat arrivino soldi falsi? Non si dovrebbe dire, però succede. In quel caso? In quel caso o c'è qualcuno che testimonia che tu hai preso esattamente quella banconota in quel momento, oppure sì, no, in effetti adesso la situazione è diversa. Adesso esiste una normativa che viene applicata dalle banche, in cui tutte le banconote che vengono inserite nei bancomat sono, ricircolate, ricertificate. E ci sarà a brevissimo anche una nuova disposizione con la quale il numero che si vede sul retro della banconota, questo codice... Questo fruscio sono 50 euro che Carla Delfino ha in mano per spiegarmi in maniera concreta cosa si... Ecco, dicevi... C'è questo codice di 11 cifre, di cui poi, se avremo tempo, spiegheremo alcune curiosità e alcuni misteri, è un codice unico per ogni banconota, quindi identifica certamente la banconota che viene inserita in una macchina automatica. Quindi la banca ha le cifre di tutte le banconote. La banca sa l'elenco delle banconote che ha inserito. Quando tu ritorni a dire: guarda che tu quel giorno a quell'ora mi hai dato la banconota falsa, la banca può verificare. È un processo che è in corso, ecco. Non tutte le banche sono attrezzate. Non tutte le banche sono attrezzate, però è quello a cui si dovrà arrivare. Matteo, buongiorno, da Bergamo. Sì, salve, grazie per avermi chiamato. Io faccio parte di un'associazione che si occupa da anni di questioni monetarie. Volevo intervenire per fare alcune riflessioni. Quella che sembra un problema estetico o legato alla criminalità, in realtà nasconde un problema sostanziale. Qual è il problema sostanziale? È quello della proprietà della moneta all'atto dell'emissione, e sia il problema della proprietà della moneta una volta che è stata emessa. Il primo punto è questo: finché ci sono i biglietti, il cartaceo, la gente riesce a vedere cosa c'è scritto su questi biglietti, perché cosa c'è scritto indica chi ne è il proprietario. Adesso sui biglietti tutti possono constatare che c'è scritto BCE, Banca Centrale Europea, che non appartiene a nessun Stato e produce questi soldi. Ma questo, ma io sto parlando di denaro falso. La persona che ha un bigliettone falso, su di lei cambia molto, c'è scritto. Io capisco l'argomento e la questione che lei pone, è interessante ma di altro titolo. Io sto parlando di soldi falsi. Non credo che cambi molto una volta che uno si è preso la soglia di avere in tasca dei soldi falsi e chi l'abbia emesso. Comunque sia un titolo con il quale lui può acquistare merce, quindi ha un suo valore. Ma io volevo fissare invece l'attenzione su fattori molto più importanti. Sì, perché saranno importanti, ma non c'entrano in questa trasmissione. Mi scusi, io mi rendo conto dell'importanza della sua istanza, però questa mattina, non perché voglia sottostimare quello che lei dice, ma non c'entra, voglio parlare di soldi falsi. Vorrei confondere le idee a chi in questo momento mi sta chiamando. Parlo di carta moneta, di banconote. L'utente semplice che va a prendere la pensione alle poste e prende il mucchiettone banconote, se le nasconde delle mutande, dà un valore emotivo a questo denaro. Questo denaro molte volte passa attraverso mani non propriamente probe che lo trasformano in denaro falso, lo rimettono in circolo come falso. Quando se ne accorge cosa fa? E quali sono le banconote maggiormente imitate, maggiormente falsificate? Le banconote maggiormente imitate sono i 20 euro e i 50 euro. E sono imitate in modo quasi perfetto le banconote da 200 euro, però c'è una, diciamo, piccola diffusione di queste banconote. Spesso la gente non le conosce neanche, sì, sono quelle molto gialle, raro vederle. Sono quelle gialle. Però sono state oggetto di attenzione da parte di un gruppo di falsari che sono, diciamo, attivi in Bulgaria e sono dei veri geni di questa arte e ne hanno fatto una banconota quasi perfetta. I 20 euro e i 50 euro vengono contraffatti in Italia, in una zona molto piccola, vicino a Napoli. Ah, già si sa dove li fanno. Certamente. E con una e questo grande... non impedisce che continuino a farli. Ma è un problema complicato. Per fare i soldi falsi ci vogliono tre figure. Primo, il falsario, che è un artista, è un tipografo... prestato, diciamo, alla delinquenza. Anche nel Filito Tò, quello che disegna la filigrana era bravissimo. Infatti. Poi c'è un aneddoto simpatico che ti racconterò. Secondo, c'è il, diciamo, lo sponsor, colui che mette i soldi per i macchinari. Costa molto avere un'attrezzatura per fare soldi. Di solito comprano macchine usate, perché le macchine nuove sono molto care. E le macchine usate possono costare fra i 20 e i 50 mila euro come investimento. Quindi bisogna fare un bel investimento. Questo investimento naturalmente deve essere tutelato, quindi deve stare in una zona tranquilla dove tu puoi tenere queste macchine. Che fanno rumore, sono le macchine tipografiche. Quindi una zona isolata dove tu naturalmente... Non puoi farle nel garage di casa. No, non si possono fare. Totò le faceva, che poi era una tipografia anche quella. Sì, ma loro giravano a mano, rullo, ti ricordi? Sì, vabbè. Terzo, ci vuole lo spacciatore, perché non è mai... Questa è una regola aurea. Mai chi stampa deve spacciare. Mai. E quindi in tutto questo passaggio, naturalmente, ogni passaggio la banconota subisce un rincaro. Quindi dal costo della produzione al costo di vendita, le banconote, come tutte le merci, diciamo, hanno un... Non può essere un'attività a gestione familiare, ecco. Assolutamente no, perché esistono anche dei falsari fai da te, sono anche bravi, però di solito loro utilizzano gli scanner e le macchine per la le stampanti, diciamo, laser. E allora in quel caso la qualità è peggiore. Se io prendo 50 euro e li metto in uno scanner o in una fotocopiatrice, che succede? Succede che esiste un sistema anti-copying device, si chiama. Se voi prendete in mano questa benedetta banconota, vedrete dei pallini, a seconda del colore della banconota, o gialli o verdi, molto piccoli, sono gruppetti di 5 di questi pallini, si chiama costellazione Eurion, e questo è un sistema brevettato da un'azienda particolare in elettronica che informa lo scanner o la fotocopiatrice a colori di non stampare, di non acquisire quell'immagine. Fate la prova, se qualcuno non ci crede, provate a mettere nella fotocopiatrice che avete accanto nel vostro ufficio 50 euro, poi raccontateci cosa sta succedendo. Leggo qualche sms. Complimenti alla signora, se ne intende. Mia nonna per ben due volte ha ricevuto euro falsi dalla posta, ritirando la pensione. Grazie ancora alla tabaccaia che ha controllato con la sua macchinetta il contante. Ora qualche decina di pensionati per mesi sono accorti di soldi falsi. Non è bello riappiccicarli a qualcuno, ma se li porti in banca li perdi. Si tratta di una banconota di 20 euro, si può anche fare, ma 500 si cerca di farla ricircolare. Con la moneta elettronica saranno solo gli stati a falsificare il denaro, dice un'altra persona. Poi la mia moneta elettronica. Sentiamo Paolo. Paolo da Rovereto. Sì, buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto. Ah, ecco, allora. Io ho un mio amico che ha una stazione di servizio benzina e bar, e qui ha preso il vetro e c'aveva 20 euro falsi. E gli ho detto, posso guardarli? E li ho guardati e erano uguali, secondo me. Poi gli mi ha detto, guarda, che se senti la carta, senti che è una carta diversa, la bandina lì d'argento, è finta, non fa gli riflessi. E dove chi è che se ne accorge? Gli dice, ma questi si accorgono tutti. E dice, vuoi andiamo al bar, vado a prendermi al bar un caffè dalla tua dipendente, voglio adesso se ne accorge. Allora dice, vai, allora ho risolto questa banconota, ho preso il mio bel caffè, mi ha dato il resto, sono tornato da lui. Questo qua sono dei capelli bianchi, ho dovuto andare al bar a rincorrere tutti i clienti a vedere perché era già cominciata a girare questa banconota. Quella avete facilmente rispacciato? Sì, ma non li guarda nessuno, chi è che guarda 20 euro? A me ancora mi rifilano monete improbabili per i 2 euro e non me ne accorgo, quindi è facilissimo. Michele da Pistoia. Sì, buongiorno. Anche a me è capitato praticamente due volte, neanche tanto lontano di tempo fa, lontano, quindi circa 4 o 5 mesi fa, una banconota da 20 euro, prima, praticamente perfetta, che io tra l'altro ho poi portato in banca insieme ad altre monete, altre banconote, e da lì nella macchinetta si sono accorti che era falsa e mi hanno detto, ma che vuol fare? No, me la renda, me l'hanno data a me, io la restituirò a qualcun altro. Me la renda, gliel'hanno restituita? Me l'hanno restituita, esatto. È possibile, Paola Delfino, no, questo? No, non dovrebbero? Assolutamente no. Cioè, si è messo a piangere, si è strappato le vesti per far pena. Non si può, è una cosa assolutamente scorretta e fuori legge quella che è stata fatta. È un reato. È un reato, perché la banconota falsa deve essere non solo ritirata dalla banca o dalla posta, ma deve essere compilato un verbale con la traccia della persona che ha portato questa banconota, e poi le autorità giudiziarie dovranno fare un'indagine per sapere se questo è uno spacciatore, diciamo, casuale, occasionale, perché insomma è un malcapitato, oppure se si tratta di uno dei tanti spacciatori professionali. E rispetto alla persona che aveva detto prima, ecco, dei 20 euro, che è impossibile, impossibile ritrovare. Allora, il concetto è uno molto semplice. I famosi falsari, fra virgolette, napoletani, cosa fanno? Vogliono ingannare l'occhio del pubblico, cioè ho detto apposta la parola occhio del pubblico, perché è quello che è meno attento. Logicamente prende questa banconota e se la mette in tasca. Il falsario non impiega neanche un attimo del suo prezioso tempo a falsificare degli elementi di sicurezza che sono segreti e che l'occhio non vede. Allora io consiglio fortemente tutti i commercianti, anche perché c'è già una disposizione di legge che glielo, diciamo, consiglia, poi diventerà di avere la macchinetta elettronica, di avere qualunque macchinetta automatica che verifichi gli aspetti segreti nascosti che l'occhio non vede. Quali sono? Li può dire? Certo che li posso dire, perché sono diciamo, c'è una serie di elementi, fra l'altro anche diciamo noti, che io posso comunicare, quindi sono inchiostri infrarossi, inchiostri magnetici, e tutta una serie di altri elementi particolari che vengono riscontrati da dei sensori. Le macchine. È vero, ci sono delle cartamonete che se le metti nel forno a microonde esplodono. Sì, perché c'è una reazione con le parti metalliche che sono all'interno di queste. Fanno un po' più un botto. Fanno proprio un botto, fanno un buco. E dentro cosa c'è dentro? Sono delle parti metalliche. Delle parti metalliche che esplodono. 800 24 0024. Oggi tutti i segreti, anche quelli nascosti che nessuno mai ha osato dire, della carta moneta. 800 24 0024. Sono sempre Miles gloriosus, gli spacconi, i millantatori, mi scrivono ascoltatori. Ma come si farà ad andare in albergo con l'amante se spariscono le banconote e poi toccherà falsificare l'estratto conto, le carte credito? Figlio mio, credo che questo sia il problema che più ci attanaglierà le viscere questa mattina. Poi comunque arrangiarti in altre maniere. Fiorenzo da Firenze, buongiorno. Sì. Ciao Gianluca, volevo raccontare la storia vera di è capitato a un mio amico che ha preso dei soldi al banco, ma è andato a fare la spesa in un ipermercato a Modena e fra le monete c'era un 50 euro falso e la direzione l'ha denunciato e ha subito un processo da cui è stato assolto, però con spese legali e con seccature, perché sono anche... Ma lui poteva dimostrare che l'ha presi al bancomat? No. No, però insomma, il fatto è che lui ha avuto per questo un processo. Eh beh, a tutti gli effetti, inconsapevolmente, in buona fede, però spacciava denaro falso. Carla Delfino, ricordo dell'Imperial Emporium che produce macchine per la verifica e il conteggio dei soldi. Quando capita una situazione del genere, cosa si fa? C'è purtroppo poco da fare. Poi la persona ingannata è la vittima. La legge è molto chiara. Si parla di spendita di banconote false, sia in buona che in cattiva fede. Quindi comunque chi ha la banconota falsa in mano, a tutti gli effetti, anche inconsapevolmente, non deve spacciarla. Quindi è un fatto molto particolare, perché tu, se non lo sai, non sei reo. Infatti poi di solito i magistrati non applicano i 12 mesi di detenzione e i 2.500 euro di multa, però naturalmente passi in un calvario che può durare anche parecchi anni. Anche perché uno spacciatore potrebbe ogni volta che è beccato dire l'ho presi al banco. Cioè, ed è quello che dicono. Dicono sempre così. Sì, certamente, perché loro sanno come... Allora, scrive un'ascoltatrice, dice una cosa che naturalmente non abbiamo possibilità di verificare, però è una voce che gira. 10 anni fa mi trovai con 50 euro falsi ritirati al bancomat. Indagando, il cassiere di una banca mi ha confidato che una soluzione fai da te dei cassieri per disfarsi di banconote false di cui non si accorgono, per non rimetterle in tasca loro, le rimettono nel bancomat e così, dice, le rimettono in circolo. È probabile, perché sennò come finirebbero? Tanta gente dice che li prende nel bancomat. Certo. Quando il povero cassiere si accorge che si è preso la sola, dovrebbe rimetterle in tasca sua. Quindi fa finta di niente, le rimette. Ma il povero cassiere dovrebbe essere intanto tutelato dalla sua banca, e loro hanno un'assicurazione per questo. Secondo, dovrebbe conoscere, perché sono operatori professionali del contante. Quindi insomma, diciamo che c'è una corresponsabilità. Se non se ne accorge lui, dice. Ecco, appunto, se non se ne accorge lui è grave. Giorgio da Milano. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Io ho ascoltato parte della trasmissione. Io sono un ricercatore sui denaro. Vado a insegnare anche all'università della terza età. Cioè cerca denaro lei? No, non cerco denaro. Faccio uno studio sul denaro. Ah, un ricercatore, un professionista che studia il denaro. Allora, devo dire due o tre cose. Dagli 1950 indietro si falsificavano i soldi per fame, adesso si fanno i soldi falsi per denaro. Per fare soldi. Per fare denaro. Poi, girando, siccome uno vado sempre a fare domande a destra e a sinistra, le cassiere dei supermercati o quant'altro, e i cassieri delle banche, non conoscono i soldi. Perché? Perché una volta negli anni addietro facevano proprio un corso di come riconoscere il falso, e il falso il falso e la copia, che non ha detto la signora, che sono due cose ben distinte e ben contemplate nel codice penale. Questo è importante saperlo. Poi il falso si può riconoscere a occhio nudo. E le macchinette fanno soltanto ridere, è solo un'invenzione dell'uomo moderno. Che è una porcheria. Questo è il suo punto di vista, che io rispetto, ma lei è convinto che occhio nudo può riconoscere qualsiasi moneta falsa? Perché se la signora, che conosce bene conosce bene la legge, se si prende il codice penale, se uno falsifica la banconota di metallo, la banconota o quella di metallo, la fa perfettamente uguale all'originale, gli anni di carcere sono 15, perché c'è truffa allo Stato, cioè vilipendio. Ma io non stavo parlando dei falsificatori, stavo parlando degli spacciatori, l'articolo 454 del codice penale, non quello precedente. Sì, no, ma io sto parlando di chi produce il... Ma la sintesi qual è del suo pensiero? Così arriviamo a un punto, Giorgio. Allora, ci vorrei dire soltanto questo. Che lei che ha la vista buona le riconosce meglio occhio che con le macchine. Sì, perché... fortunato. Se noi ci mettiamo in mezzo alla una strada e passano delle persone e facciamo una domanda stupida, semplice, cioè, che colore è il 5 euro? Ne sentirà di tutti, scusi il termine, di tutti i colori. Ma a me non è importante ricordarsi il colore, sinceramente... sì, è verdolino, azzurrino, non so, una cosa del genere, è quella un po' più piccola delle altre che somiglia ai 20 euro. Quello gli rispondo anche io, onestamente potrebbe capitare. La saluto, Alessandro Pedone, buongiorno. Buongiorno a lei e radioascoltatori. Allora, Alessandro Pedone è responsabile per la tutela del risparmio di ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, e è un profondo e appassionato filosofo dell'eliminazione delle banconote. Lei è per il portafoglio elettronico. Che significa? Significa che l'utilizzo del contante fisico è un po' un retaggio del passato a cui noi siamo tutti legati anche psicologicamente. Anche emotivamente. Come zio Paperone, tutti vorremmo fare il bagno nella vasca piena di soldi. Esattamente, quindi c'è tutto un aspetto anche emozionale legato al denaro, studiato tra l'altro molto anche da psicologi e filosofi, però implica tutta una serie di... È per questo il Duce non voleva la banconota gay, gli sembrava non adatta all'Italia. Però appunto implica tutta una serie di problematiche legate, oltre a tutti gli aspetti di falsificazione di cui avete parlato, ma anche a problemi legati ad evasione, problemi legati... Perfetto, lei cosa propone quindi? L'abolizione totale della moneta? Allora, è possibile sostituire la moneta con moneta elettronica, ma non moneta elettronica privata, quindi gestita da banche come carte di credito o cose simili, ma la tecnologia ci consente di replicare il modello della moneta fisica, quindi con gli aspetti anche di anonimato nella singola stazione, quindi non è il necessario... problema dell'ascoltatore dice se io porto l'amante in albergo come faccio? Se vuole portare l'amante in albergo eccetera, è tecnicamente possibile, se abbiamo tempo possiamo spiegarlo come, sì. Ma è tecnicamente possibile fare in modo che queste transazioni rimangano anonime, nel senso che non si sa che tu hai portato l'amante. Ma come si fa? Tutto ciò che passa per via elettronica è tracciabile? Sì, questo è vero, ma dipende come i dati vengono conservati e come vengono registrati. Le sa benissimo, come oggi è stata data una disposizione che tutte le nostre transazioni comunque vengano comunicate all'Agenzia delle Entrate, qualcuno domani potrebbe dire anche il tesoretto privato che passa attraverso il portafoglio elettronico, voglio sapere per che mani passa. Sono dati elettronici, sono nella memoria di un server, ci sarà un internet provider che comunque gestisce questi dati, quindi basta che un'autorità dica li voglio vedere e finiscono di essere riservati. Naturalmente è una questione di scelte, però è tecnicamente possibile fare in modo che questi dati non vengano proprio trasmessi, quindi che sia trasmessa la quantità di denaro che passa da un portafoglio elettronico ad un altro portafoglio elettronico, ma non l'identificazione della causale. Io capisco l'idea, è anche molto legata, è interessante per una nostra vita futura, però ripeto il mio punto di vista è che Carla Delfino ha davanti 50 euro, se lei me li mette in mano senza che nessuno vede, rimane tra noi, la transazione è avvenuta. Se lei fa una transazione di tipo elettronico, per quanto sia riservata, io abbia tutte le garanzie che rimane riservata, sono dati che rimangono in una memoria fisica e basta che qualcuno dica per autorità io voglio metterci mano e quei dati non diventano più privati. Carla Delfino, però esiste un'altra fattispecie legata a ciò che rimane attaccato ai denari, ne parlavamo prima. Le monete sono anche un grande riflesso di nostre abitudini, soprattutto legate all'uso della droga. Sembrerà strano, ma nella moneta rimane traccia anche di usi illeciti di sostanze stupefacenti. Allora, sono stati fatti molti studi. Per esempio nel 1999 a Londra, nella città di Londra, si è visto che il 90% delle banconote circolanti nella città recano tracce di droga, di cocaina. Nel 2007 invece in Irlanda il Dublin City University ha fatto uno studio approfondito e ha visto che il 100% delle banconote irlandesi esaminate attraverso una cromo fotografia, cromatografia, rilevano tracce di droga. Quindi evidentemente vengono utilizzate. Ma in Germania, di recente, si è scoperta ancora un'altra cosa. E la banconota da 50 euro, molte banconote da 50 euro, presentavano un accartocciamento. Erano stazionate in maniera sospetta. Anomalo. E allora hanno cercato di capire di che cosa si facesse riferimento e hanno scoperto che queste banconote venivano utilizzate per frantumare dei cristalli di una droga di cui io non conoscevo l'esistenza, l'ice. Sono pare dei cristalli, e questa droga quindi viene frantumata all'interno della banconota in una mano, poi ridotta in polvere, viene utilizzata dall'utilizzatore attraverso la banconota. Dopodiché cosa succede? La cosa interessante viene dopo. Questa banconota porta queste tracce. Queste tracce di questa sostanza che si chiama metanefatina, questa sostanza praticamente si combina con il sudore delle mani e quando tu maneggi queste banconote e crea un acido solforico che è aggressivo. Quindi queste banconote si autodistruggono. Quindi se si dissolve in mano 50 euro... Si dissolve in mano 50 euro e anche può contagiare la banconota vicina nel portafoglio. C'è una sorta di cancro dei soldi dati dal fatto che la gente ci si spara l'ice dentro. Poi ti danno i 50... Con le mani sudaticce ve le prendete in mano e parte la malattia dei 50 euro, quindi state molto attenti. Io vedo che nelle forme di intervento indirette di questa trasmissione sta prendendo tutta un'altra piega. Adesso è aperto un dibattito su quello che accade quando si va in albergo con l'amante o con l'amante maschio. Quando si va in un motel chiedono comunque la carta d'identità, per cui non ci si può sempre coprire. È un altro argomento, non c'entra nulla. Il problema della tracciabilità per i nostri ascoltatori rimane limitato alle clandestine fughe per intimidazioni illecite. Marco da Milano. Ah, una cosa Marco, scusi, molti stanno facendo i furbetti dicendo io con la mia fotocopiatrice fotocopio i soldi. Sì, ma a colori, in bianco e nero è inutile fotocopiare una banconota, non la potreste spacciare. Provate a fotocopiarla a colori se ci riuscite. Marco da Milano. Sì, voi mi sente? Sì, certo. Sì, intanto, faccio complimenti per la trasmissione. Io sono un meccanico macchinari litografici. Avevo bisogno di farmi due domande. Uno, perché c'è la falsificazione e non la duplicazione? Perché sono convinto che riuscirebbero a duplicarle. Secondo lei è più facile duplicarle? Prego? Secondo lei è più facile duplicarle? No, diciamo. Perché le falsificano? Poi adesso risponderà Carla Delfino, che è l'esperta. Poi? E poi un'altra cosa, io facendo il meccanico capito nelle litografie. Ora, a me non mi è ancora capitato, visto che sono un libro professionista, ma se mi capita di andare a trovare qualcuno che stampa, io come mi devo... Cioè, oltre che vado via, ok, però... Cioè, lei se magari... trova che stanno stampando banconote da 50 euro, che fa? Paura? Io lavoro in tutta Italia. Io farei finta di niente per tema che mi mettano dentro un blocco di cemento. Oltre a questo, dato che lavoro in tutta Italia, può capitare che vado a lavorare anche... A sud, ma le è capitato? No, sinceramente no. Allora aspetti che capiti, non so che dirle. No. Anch'io se vedo che stanno sgozzando una persona, se posso intervengo, se no cerco di avvicinarmi al telefono e chiamare qualcuno. Lei si trova nella fragranza di un reato, decida lei se sono tanti, sono grossi, io farei finta di niente, poi telefonerei da fuori. Se lei se la sente, è un esperto di arti marziali e vuole fare l'eroe, li metta in condizioni di non nuocere. Se lei ha un profondo istinto alla complicità negli atti delinquenziali, dice: non dico nulla, ma mettetemi parte l'affare. Decida un po' lei. Carla Delfino, perché, dice il nostro amico litografo, non li copiano invece che falsificare? Beh, sì, certo. Infatti, allora, intanto risponderei alla seconda domanda. Cioè, io credo che i signori che organizzano queste grandi operazioni di falsificazione siano molto accorti. Se ne capono la porta quando uno dice pizza. I falsari in Italia sono tutti noti e stanno il quantitativo... Sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi, sono sulle dita di due mani. 10 in tutta Italia saranno. Insomma, quindi diciamo che... Ma cosa fa? Li mettono dentro, poi escono. Ricominciano. Sono un grande capitale per la Camorra, diciamo, perché è questa l'organizzazione che gestisce il traffico. Così come tutto il mondo, quindi sono noti, quelli bravi. Certo, quelli fai da te, lo studente che fa la clonazione delle banconote, con il suo scanner di casa modificato, perché logicamente certo, lui, tu puoi lui cracca lo scanner, ricopi la banconota, ma come la stampi? La stampi in offset, cioè scusami, la stampi con il laser o con le stampanti? Ma la carta? La carta, la carta, il problema è la carta. È vero che esistono delle carte particolari che vengono acquistate nei mercati, anche non diciamo mercati ufficiali, e che riproducono un pochino il suono della carta. Logicamente la stampa fatta tramite le stampanti normali ha un effetto completamente diverso rispetto alla stampa, senti, stampa litografica. Sono uscite notizie sul nuovo euro che uscirà fra un po', che sarà una carta speciale, ci sarà la cotone a fibre lunghe, quindi sarà infalsificabile. Tu già l'hai visti i nuovi euro? Sì, li ho già visti da parecchio tempo, fra l'altro la settimana prossima. Perché sono misteriosissimi, non si sa nulla. E non si deve sapere. E come nulla. Sono? Almeno raccontacelo. Beh, diciamo che sono, io li ho visti, li ho toccati per parecchio tempo, adesso ce l'avrò in mano per 2 settimane, quindi insomma li guarderò di nuovo meglio. Le banconote nuove circoleranno a maggio del 2013, sarà rivelata l'immagine della banconota a gennaio del 2013. Ma tu lo sai cos'è? Io lo certo lo so. E dimmi che diciamo che rappresentano sempre e sono simili a quelle che al 5 euro ci sono grigio lì. Hanno un colore un pochino diverso. Ma cosa c'è rappresentato? C'è rappresentata Europa. E la ninfa Europa, l'amica di Zeus. Zeus si era trasformato in un toro per rapire Europa. Questa... Così sarà contento la buon'anima che avrà finalmente il toro nelle banconote che lui tanto sognava. E sono stati già, diciamo, divulgati alcuni particolari, quindi ne posso parlare. E la filigrana porterà l'immagine della del viso di questa Europa, che è un vaso tratto da un vaso presente al Louvre. Un vaso di Europa che cavalca il toro. Che cavalca il toro, con un bel sorriso, con una bella collana, e questa stessa immagine verrà riprodotta su una striscia di ologrammi a colori, che saranno diversi da queste. Perché hanno scelto l'immagine e non gli archi che c'erano prima? Perché l'immagine è più difficile sia da riprodurre e poi rimane più impressa. E la materia, diciamo, la carta sarà diversa. La carta è diversa e verrà anche protetta da una vernice particolare, quindi ci sarà una usura inferiore, perché le banconote 5 euro sono quelle che sono più usurate. Tu che sei antica del mestiere, i falsari saranno già all'opera, già avranno trovato il modo per rifarle. Io penso proprio di sì. Quindi mentre escono quelle vere già sono pronte quelle false. Sì. Quindi questo c'è già un margine di io convenzione. Io penso proprio di sì. Proprio di sì, bisogna vedere la qualità. Perché io sono fedele... Qual è il momento migliore per spacciare? Subito, finché ancora Immediatamente, perché tu sei confuso, non conosci la banconota. Infatti, quando noi abbiamo sostituito, se è stata sostituzione dalla lira con l'euro, i primi falsi addirittura hanno spacciato banconote di 300 euros con donne nude. E la gente le ha passate, le ha prese. Quindi parliamo di... Qui di sarà valida. Interessante vedere quando uscirà questa nuova moneta europea a maggio, quanto sarà possibile percepire quelle false che già saranno pronte negli scatoloni, con l'Europa, con il toro, con la filigrana, pronte a essere spacciate per noi ingenui utenti di carta moneta. Grazie Carla Delfino, grazie a tutti a gli altri, ci sentiamo lunedì.